Pronto? Pronto, ciao. Sì, ciao. Mi senti? Sì, sì, sì, sì. Siamo Giorgio e Francesca. Dov'è? Ciao, benvenuto. Ce l'avete fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Come stai? Bene, bene, sto facendo da mangiare. Ah, bene. Ottimo. Che cosa cucini? Ma siete gemelle, parlate in coro? No, è che stiamo troppo insieme, quindi succedono queste cose. È simbiosi, capisco. Capisci, vero? Cosa ti stai preparando? No, noi siamo curiose. No, in realtà sta facendo Marchino, cosa stai facendo da mangiare? Carne con l'aceto balsamico e patate e cipolle. Vi trattate stra bene. Ci trattiamo bene. Mai lo chef in casa. Ma in realtà sì, ci alterniamo, dai. Però anche Marchino è potente a cucinare. Ottimo. Niente male. Ma da dov'è che chiamate voi? Noi siamo qua da Bologna. Ah, da Bologna, figo. Sì. Figata. Ti chiamiamo in vista della tua data qui, il 9. Del live. Sì. Non vediamo l'ora di sentirti dal vivo, ancora non abbiamo avuto occasione. Io non vedo l'ora di venire a Bolo. Oh, è un botto di tempo che non passo da lì, tra l'altro. Mamma mia, dici un po' che rapporto hai con Bologna, perché guarda, lo diciamo ormai ogni puntata, Bologna è sempre una tappa irrinunciabile nel tour di ogni artista. Cos'è per te? Cosa vuol dire per te? Allora, vabbè, in realtà Bologna mi evoca un sacco di ricordi, perché anche anni fa venivo spesso, con anche amici che abitavano là. Mi capitava spesso di venire, poi vabbè, avevamo suonato lì col Quintale 2 o 3 volte. Mm-hmm. Mi è sempre piaciuto un sacco, perché al di là che si beve con pochissimo. È vero. E poi è bella punk, come piace a me. È rude, è rimasta, sì, così. Sì, è vera. È vero, è una di quelle poche città che vivi ancora con poco. È vero. Senza diventare matto. È così. Ma tu invece l'accento non tradisce, sei di Brescia. si sente? No. Sì, io sono bresciano. Ma come? Il mio accento non mi tradisce mai, altronde. Com'è stato cominciare a fare musica là, nella tua città? Figo, io in realtà non sono proprio della città di Brescia, io arrivo da un paesino che è Salò sul lago di Garda, quindi sono ancora più isolato. Ma è iniziato abbastanza per caso, quando andavo alle superiori io avevo la nonna e parenti a Brescia, quindi andavo là tutti i fine settimana. Ho iniziato verso i 16 anni e da lì ho iniziato i primi freestyle, i primi giri, amici, e da lì sono partito. Ma è iniziato tutto molto per gioco, come sempre. Senti, ma prima hai citato appunto i fratelli Quintale, che fanno parte del tuo percorso, della tua storia. Oggi sì. Che cosa ti porti di quell'esperienza e cosa invece hai lasciato completamente alle tue spalle? Beh, sicuramente ci sono nato con i Quintale, insomma, quindi cioè, i primi live, le prime cose, le prime esperienze, insomma, è stato un po'... quello che mi ha formato, diciamo. Mm-hmm. Abbiamo fatto tanti live, tanti freestyle in giro, eravamo piccoli, giravamo l'Italia, quindi insomma, diciamo che mi porto appresso esperienza sul palco, che adesso mi giova a favore assolutamente. Certo. La cosiddetta gavetta, no? Sì, assolutamente. Però sai, mentre la fai non ci pensi, adesso mi sta tornando tutto utile comunque. Sì, cose brutte che mi lascio alle spalle, sinceramente niente, non ho niente che rinnego, che rimpiango del percorso col gruppo, anzi. Però hai fatto una scelta molto coraggiosa, cioè quella di ripartire da zero senza, come dire, senza neanche celarti dietro al nome di Quintale, perché... No, anche perché, guarda, io sono dell'idea che se bisogna fare una cosa bisogna farla bene. Le cose a metà, a mezzo paraculo, non mi sono mai piaciute, quindi nel momento in cui chiudo un capitolo, tra virgolette, ne inizio un altro, mi piace entrare, scusate il latino antico greco, un po' a cazzo duro, ecco. Quindi anche il discorso del disco senza featuring, insomma, ci tenevo, visto che erano 2 anni che non è che ero fermo, però buttavo fuori solamente singoli e non ero riuscito a concretizzare un progetto. Insomma, nel momento in cui torno con un progetto dopo 2 anni di silenzio, tra virgolette, ho voluto farlo nel miglior modo possibile per me, insomma. Poi vedo che comunque questa cosa piano piano mi sta ripagando molto, perché la gente lo riconosce. Sì. Beh, direi di sì. Guarda, un capitolo che si è concretizzato il 28 settembre, il giorno in cui è uscito il tuo album Pezzi di Mario. Yes. Raccontaci in poche parole, se si può, questo album e cosa c'è dietro, ma soprattutto cosa ti aspetti da questi mesi. Allora, Pezzi di Mario è, diciamo, il riassunto di 3 anni di vita, dal 2015 fino ai primi 2018, mm-hmm. in cui io facevo altro nella mia vita, non ero focus completamente al 100% sulla musica, mm-hmm. e quindi diciamo che ho scritto molto, ho fatto uscire dei singoli che faccio tuttora live, tipo Judas, Rolling Stone, che sono canzoni che tuttora mi piacciono un sacco, però diciamo che mi sono ritrovato all'inizio 2018, ho ritrovato Marchino e Manenti, che sono due miei amici storici di vecchia data, i famosi amici che vi dicevo prima, che ho conosciuto quando andavo da piccolo, sì, a Brescia, facevo pendolare, bla bla bla, esatto. E insomma, in quei 3 anni io facevo un po' avanti e indietro da Londra, poi avevo un lavoro, insomma era un po' incasinato e non ero focus sulla musica, al che una certa ci siamo, non è che avevamo perso i contatti, però sai, quando uno fa una cosa uno un altro, sì, no, si allenta, vuoi o non vuoi, ci si perde un po' di vista, esatto, i rapporti un po' si allentano, ci siamo ritrovati, io avevo questa marea di pezzi, insomma abbiamo fatto una cernita e loro mi hanno guardato e mi hanno detto: ma qua, vecchio, questa roba spacca, cioè bisogna ricominciare, fare il disco e ripartire, perché sta roba è una bomba. Insomma, da lì sono stati un po' anche la chiave di svolta, diciamo, anche a livello motivazionale, mm-hmm. e da lì basta, siamo partiti anche col percorso di agenzia booking piuttosto di management, sì. Diciamo che al momento mi sento fortunato, insomma, meglio di così non poteva andarmi, perché comunque arrivo davvero da un buco nero, quindi per me è una rinascita questa, sì. Capito? Hai fatto bene, è un esperimento a mio dire ben riuscito. Io avevo parlato di te su NSS Magazine, non so se conosci. Ah, grande sei tu, grande. Certo, sì. Certo, ho visto l'articolo. Ciao, una bomba. Sì. È bello quando ci sono queste reazioni, sì. Comunque, mi aveva colpito moltissimo Settembre, è un pezzo, credo sia stato anche uno dei singoli, no? Prima del disco. Sì, è stato il secondo singolo, se sì, non sbaglio. Mi pare di sì. Vabbè. Veramente, veramente molto bello. E mi è piaciuto e mi ha colpito il fatto che comunque tu sia riuscito a rientrare duramente nella scena. Nel senso, tu non so come dire, non ti nascondi dietro al dito del pop. Ecco, mettiamola così. Okay, fai rap e si sente, fai pop e si sente. Quindi volevo chiederti per curiosità com'è nata questa canzone. Allora, Settembre, per assurdo, a livello di penna è uno dei pezzi più vecchi che mm-hmm. c'era. L'ho scritto addirittura, mi sembra, fine 2014, inizio 2015, un pezzo che avevo scritto proprio vecchissimo, poi accantonato, mm-hmm. e tra l'altro, infatti, riascoltandolo con Marchino mi guarda e mi fa: guarda che questa è una bomba, facciamoci una produzione, qualcosa, e l'abbiamo rinfrescato. Mm-hmm. Settembre, diciamo che è un po', sai, sempre un po' il mese di svolta, no? Chi studia, chi lavora, insomma, buoni propositi. Esatto. Possono succedere mille robe, può non succedere un cazzo, dipende dalla fortuna di ognuno. E insomma, io comunque sono cresciuto in una zona lacustre, vacanziere, quindi Settembre mi ha sempre un po' messo, non tristezza, però sai, è malinconia, un mese malinconico, malinconia. Hai capito? Vanno via tutti i turisti, cioè vedi proprio cambiare il posto, no? Mm-hmm. E da lì mi era nata questa riflessione sul fatto che proprio Settembre, anche per me comunque a Settembre mi sono sempre successe un sacco di cose, e non a caso il disco l'ho buttato fuori a Settembre, perché volevo rimarcare questa cosa, questo collegamento con questo mese. Esatto. E a livello di penna è uno dei più vecchi proprio che abbiamo rispolverato, però ci tenevo particolarmente perché è uno di quelli che più mi sento addosso, ecco. E si sente. Ma a proposito della tua data, sarai con i Tauro Boys, li conosci? Ti piacciono? Sì, infatti sì, volevo sapere di questa combo. Ma guarda, io non lo so, penso che sia stata proprio una cosa a livello di agenzie booking, perché io non ho ancora avuto il piacere di conoscerli personalmente, ho sentito qualcosa di loro su Spotify e mi piace molto la roba, è bella particolare, anche loro sono abbastanza punk, nel senso non è che si fanno troppi problemi a fare un pezzo di un tipo piuttosto che di un altro. Mi piace questa mentalità, è come un po' nel mio disco, comunque ci sono dei pezzi che passi da Come No a Settembre, però c'è sempre un filo conduttore, secondo me. C'è un filo di verità che, esatto, che vi accomuna. Assolutamente, che poi è la penna la cosa che ti distingue di più. Assolutamente, ma oltre Settembre, il mese rinomato per i buoni propositi, è proprio gennaio, no? Siamo ancora a gennaio e io voglio sapere qual è il tuo buon proposito per il tuo 2019. Diventare un angioletto. Sì. Allora no, adesso abbiamo preso una casa io e Marchino, siamo, tra l'altro siamo tornati oggi, abbiamo fatto il weekend in città. Siamo praticamente romantico, in weekend romantico. No, weekend siamo tornati alla civiltà. Abbiamo preso un paio di settimane una casa su un monte isolatissima. Cosa e siamo qua fatto? Da un paio di settimane a questa parte. Stiamo facendo musica nuova, disco nuovo. Stanno venendo fuori un sacco di belle robe. E avevamo bisogno proprio di cambiare aria, di cambiare wave. Sto un po' ritrovando me stesso, insomma. Bene, bene, bene. Hai letture particolari, libri, non so, dischi da consigliarci? Ma sì, adesso tra l'altro ne vado molto fiero perché sto ricominciando a leggere, ho fermo da un po' ho tempo per leggere, mi faccio i giri, cioè sto proprio facendo quello che non facevo da tempo, mi guardo molto dentro, capito? Voglio fare proprio a livello di scrittura, voglio fare un passo ancora più avanti, voglio diventare bello, ancora più viscerale. Beh, perché sento che comunque ho ancora un sacco di cose da dire e questa situazione mi stimola parecchio, comunque siamo isolati nel mondo, cioè non c'è niente qua, ci siamo solo noi e lo studio, basta. Direi che questo isolamento ha prodotto dei buonissimi propositi per questo anno. Sì, guarda, non poteva iniziare meglio, non poteva. Poi sai, io sono una persona che ho bisogno sempre di stimoli, di roba, anche fare sempre musica nello stesso posto. Poi mi stavo accorgendo che la roba iniziava a essere un po' ridondante. Ho sempre bisogno di cambiare, è giusto. Guarda, non riesco mai a star fermo. Noi ti stiamo immaginando mentre aspetti il tuo bellissimo cenetta. Sì, mi sto mangiando le unghie. Ma infatti adesso ti lasciamo andare. Manca poco, dice che non c'è il coperchio, ci vuole un attimino di più. Ecco. No, ma sono in buona compagnia, ci mancherebbe. Sto volentieri al telefono. Noi ti diamo appuntamento al 9 al Locomotive, dove ovviamente ci saremo anche noi, e quindi ti ringraziamo nel frattempo. Grazie a voi, li faremo, ci vediamo al 9. Una bella intervista per bene, insomma, avremo anche più tempo. Intanto grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille a voi, raga. Ciao. Buona serata. Ciao. Un bacione. Ciao. Baci, ciao.